seduti qui per terra, solo un fiore. Si dice siamo in guerra e non si sa il perché, e non si sa il perché. Si dice siamo in guerra e non si sa il perché, e non si sa il perché, no, non si sa il perché. Ti cerco, nostro amore è cresciuto e senza età, ma ci ha rubato i sogni per chiuderci in città. Chiuderci in città, ma ci ha rubato i sogni per chiuderci in città, per chiuderci in città e per chiuderci in città. Ti cerco i nostri figli ancora sa giocar, mi chiedo fino a quando un bimbo giocherà, un bimbo giocherà. Mi chiedo fino a quando un bimbo giocherà, un bimbo giocherà e un bimbo giocherà. Mi cerco i miei compagni, il rosso fiorirà, l'utopia e l'idea è un vecchio tram, l'idea è un vecchio tram, ma stenta l'utopia e l'idea è un vecchio tram, l'idea è un vecchio tram e l'idea è un vecchio tram. Grazie. Grazie.